È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Allora, caro Parenzo, io dico una cosa: in campagna elettorale se ne possono dire di tutti i colori. Ah, ancora questa storia. No, si può. Aspetta, guarda che ti vengo incontro questa volta. Si può dire in campagna elettorale, si può dire di tutto. Si possono promettere anche cose pazzesche, cose che poi non arriveranno mai, eccetera. Però portare a passeggio il cane, togliere le multe, portare a passeggio il cane di Cruciani. Qualsiasi cosa si può promettere, secondo me. E c'è però una regola molto semplice: una volta che tu proponi una cosa, devi essere d'accordo. Non come ha fatto il centrodestra a Milano, che propone, almeno la Lega propone, il famoso trasferimento di alcuni ministeri al nord, una cosa che secondo me ai milanesi non gliene frega assolutamente nulla. Quali sono i vantaggi di avere questi politici tutta la settimana a Milano? Dopodiché Berlusconi ne ha parlato con Bossi, non hanno avvertito alcuni dirigenti del PDL, compresi Cicchitto, Gasparri, la Polverini e altri, e Alemanno, il sindaco di Roma, e adesso i giornali parlano solamente delle divisioni interne al PDL, cioè questa proposta viene completamente dimenticata e si parla delle divisioni interne. Pura follia. Al PDL. Per me è una proposta semplicemente inaccettabile. Lo Stato ha una capitale, il governo con tutte le sue ramificazioni deve rimanere nella capitale. Mi pare che ieri sera il Presidente del Consiglio comunque non ha parlato di trasferimento di ministeri, quindi la cosa si è ridotta, ma è necessario un chiarimento, tant'è che io e il sindaco Alemanno insieme. Poi a un certo punto Berlusconi parla di dipartimenti. Arriveranno probabilmente dei dipartimenti, come ci sono già a Milano, dipartimenti delle opere pubbliche, del provveditorato scolastico. Cose incredibili. Calderoni parla di ambiente a Napoli, interni in Calabria, esteri in Sicilia. Io credo che al sud possano starci tanti ministeri, quello dell'ambiente io l'ho pensato a Napoli, quello degli interni in Calabria, quello degli esteri in Sicilia. È una barzelletta continua, anche perché a un certo punto... Che significato ha? Cioè, a chi giova avere il Ministero degli Esteri in Sicilia? Cioè, qual è il vantaggio? Ma poi Matti, mi puoi spiegare a che serve? Ma questa qua è un'uscita al limite del comico di Calderoli. A un certo punto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, dice alla Regione Lombardia non interessa i ministeri della serie, andiamo d'accordo e ci mettiamo d'accordo prima nel fare le proposte. Senti Formigoni, La mia regione non è interessata a qualche posto di lavoro ministeriale, dove quello che chiedo da tempo sono politiche diverse, o semmai trasferimento finalmente alle regioni, alla Lombardia. Tant'è che arriva la pernacchia ormai famosissima di Bossi. Cosa risponde a Formigoni che dice che i ministeri a Milano non servono? Bene, bene. Bene, bene. Anzi, malissimo. Però ti faccio ascoltare anche quello che è uscito fuori oggi dal Parlamento. C'è un deputato dell'UDC che si chiama Santolini. Sì. Santolini, donna, credo che sia stata presidente del forum delle famiglie, eccetera. Che parla della pedofilia come orientamento sessuale, esattamente come la omosessualità. Cioè, omosessualità e pedofilia farebbero parte dell'orientamento sessuale. Senti. Il mio orientamento sessuale è eterosessuale, altri hanno un orientamento omosessuale, altri poligamico, altri pedofilo. In qualità di vittime di discriminazione e violenze cadiamo tutti sotto la tutela di questa legge o no? E se si vuole tutelare solo gli omosessuali e transessuali bisogna esplicitarlo e non rimanere in un'espressione che può portare a esiti paradossali. E senti Straquadanio che dice chiamano puttane quelle del PDL. Le persone che lavorano con noi alla campagna elettorale vengono costantemente e ripetutamente indicate dai nostri avversari come puttane. passano i nostri avversari politici con i loro simboli politici, guardano le donne che lavorano con noi e le dicono loro: puttane, quanto vi danno per stare qui a prendere questi voti? Puttane, cosa avete fatto per stare con quel partito del puttaniere? E così via. Cercate di tenermi stretti sto lavoro, pensiamoci più tardi, adesso parte il coro. Bene, bene, bene, questo accade in Parlamento, 18.41, 800 24 00 24. David! Eccoci! Eccoci qua, sai chi ho accanto a me? No, come faccio a saperlo? Io sono ad Assago, tu sei in sede centrale. Tommaso Staiti di Cuddia, buonasera! Buonasera, ciao David! Detto ciao, anche, detto anche, no, torniamo il di nuovo. Terrore dei mariti. Ecco, e come mai questa cosa? Lei che ha quasi 80 anni, quando è che lo chiamavano il terrore dei mariti? Quando avevo 50 anni di meno. Quando aveva 50 anni, e come mai ci ricordi questa cosa? Come mai ci faccia sognare il Ma terrore? Ma no, è una vecchia battuta di un amico che oggi non c'è più, Gazzaniga. E Gigi Rizzi si è incaricato poi di divulgarla ampiamente nei suoi libri. Lei mi era un po' Don Giovanni all'epoca, no? No, io non sono mai stato Don Giovanni, ma cioè, non per fregava, carità, non fregava mai, le donne. Non ho mai conquistato nessuna. Non è un delitto. Forse sì, forse mi sono fatto conquistare. Ah, ma ecco. Basta essere al posto giusto nel momento giusto, non ci vuole altro. Oddio, per alcuni ci vogliono altre cose, per esempio cioè? Il nostro Presidente del Consiglio che fa? Non ha mai pagato una donna, dice lui. A straguadagno lui. Poi ho sentito che ha detto alcune cose, le dice lui sul Parlamento e sulle elette. Lei mai pagato nessuna donna nella sua vita? Quando c'erano le case di tolleranza, perché non c'era altro modo allora. Allora, il signor Tommaso Staiti di Cuddia è stato dirigente del Movimento Sociale, storico dirigente del Movimento Sociale, e ha lasciato il Movimento Sociale quando? Nel 91, no? 91. Quando Fini addirittura divenne segretario. Ridivenne segretario. Era un avversario di Fini, adesso, come molti di voi sanno, l'abbiamo già ospitato qui alla Zanzara, è tornato, diciamo, accanto a Fini, diciamo così, in Futura Libertà, non dico in odio perché forse non c'è odio, ma certamente con l'obiettivo di scalzare Berlusconi, no? Di mandare via Berlusconi. Tutto ciò che può contribuire a mandare a casa il guitto di Arcore. Il guitto di Arcore, guitto di Arcore. Insomma, adesso siamo all'avanspettacolo. Le cose, le notizie che state dando e che stanno dando tutte le televisioni, i giornali in questi giorni. Io mi aspetto solo venerdì la grande promessa, più gnocca per tutte, e sarà la promessa arrivare, elettorale. Potrebbe arrivare, oppure il sorteggio di 1000 biglietti di invito per le serate di Arcore, ma può arrivare tutto ormai in questa campagna elettorale. Però è abbastanza curioso, Gianduca, lei fa il tifo da ex Missino, uomo di destra, no? Immagino, ancora oggi o no? Ma non gliene frega niente. Non credo ormai più che la parola destra e quella sinistra abbiano un significato. Comunque oggi lei fa il tifo per Pisapia? Sì. Cioè a Milano, tra Pisapia e Moratti, Pisapia. Convintamente, cioè, anche se non appassionatamente. Ex comunista, sinistra e tutto. Ma vede, ci si è... Centri sociali, tutto quello che hanno scritto impropriamente. Per carità, però... ma chi si è combattuto 20-30 anni fa, ma anche chi ha fatto le guerre per andare a cose ovviamente più drammatiche, più tragiche delle nostre, ha rispetto per l'avversario, ha rispetto per le passioni politiche che hanno mosso tanti. Ha rispetto per Pisapia, più rispetto per Pisapia piuttosto che per la Moratti. La Moratti non ha mai provato una passione in vita sua in nessun campo. Che ne sa lei, magari La conosco. Come la conosco? Quanto la conosco? Da 30 anni la conosco. La conosce bene, no? Bene, no. Non è stata una sua conquista all'epoca, no? Ma per carità, perché scusi, un minimo di buon gusto ce l'ho sempre avuto. Vabbè, ma da giovane magari era una bella donna. No. È sempre stato un manico di scopa. Certamente, adesso voglio dire, la signora... Una lady di fil di ferro. Una lady di fil di ferro. Come lotta il nostro grande Staiti di Cuddia delle Chiuse. Perché ecco, tu devi dire tutto completo il cognome. Tommaso Staiti di Cuddia delle Chiuse. E se ne va la trasmissione. Allora, traffico, poi torniamo subito. Scusi, quando l'ha conosciuta la Moratti lei? Beh, l'ho conosciuta 35 anni fa. Era uguale? Sì, più o meno sì. Identica. Non assomigliava così a Stalio in versione femminile come oggi, ma era già... Com'era Stalio in versione femminile? In versione femminile assomiglia a Stalio, non c'è poco da fare, soprattutto quando fa mentuccio. Come fa mentuccio? È il mentuccio, il sorriso col mentuccio. Traffico, torniamo tra un attimo, traffico. Bene, bene, siamo qui 800 24 00 24 con Tommaso Staiti di Cuddia, e qui facciamo delle chiuse, che nome aristocratico, no? Certo. Beh, non lo posso negare. È così. Com'è è che così. Chiamavano l'aristo dest? No, com'era la storia? No, la destra aristocratica, una cosa all'epoca. Forse sì, ma non è questo il problema. Io credo a una aristocrazia dello spirito e del modo di essere, non a quella che deriva da tradizioni più o meno antiche e più o meno attuali. Senta, ma Pisapia e Moratti, dunque Pisapia? Pisapia. Pisapia. Non appassionatamente, ma convintamente. Convintamente, cioè questo perché? Perché nonostante il suo passato, tutto, il passato non conta. Il passato, per Berlusconi, cioè pur passato, di abbattere Berlusconi, Pisapia. Il passato conta, lei sa che la mia canzone è Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Conta, e ognuno deve essere orgoglioso del proprio passato, se l'ha vissuto con onestà e con impegno. Ma in questo momento, siccome Silvio Berlusconi ha offerto su un piatto d'argento la possibilità di perdere a Milano e quindi di togliere il disturbo, io voto Pisapia, anche perché, mi scusi, ma questi del centrodestra sembrano dei marziani sbarcati oggi perché a Milano. Dice? Perché governano da 20 anni Milano. Formentini, 10 anni Albertini, 5 anni Moratti. E allora, se questi problemi non li hanno neanche affrontati in questi 20 anni, come possono dire che oggi ci sono i centri sociali? C'erano anche ieri. Che ci sono gli islamici? C'erano anche ieri. Che ci sono gli zingari? C'erano anche ieri. E vengono spostati da un posto all'altro più o meno sempre. Senta, dicono che La Russa potrebbe diventare assessore. Il suo amico La Russa potrebbe diventare assessore, sarebbe uno delle proposte. Ignazio, però, no, Ignazio, Romano, Ignazio. No, forse è meglio un figlio di Ligresti, allora, a questo punto. Perché lei dice c'è questo legame molto stretto tra la famiglia Ligresti e quella Russa, cioè se devono mettere La Russa, meglio Ligresti. Meglio Ligresti, almeno le cose sono Ligresti chiare. È un costruttore, un immobiliarista che ha degli interessi a Milano. Ha costruito molte cose, moltissime. Cioè, dunque, vi sta dicendo, preferisce Pisapia perché la Moratti la identifica con Ligresti. Non soltanto con i resti, con gli immobiliaristi, con la Bracco, con Cabassi, con la Compagnia delle Opere, quelli che sono che a lei non piacciono, i poteri robusti. Invece Pisapia è estraneo ai poteri forti della città. Beh, lo spero. Non so se sia estraneo, ma quantomeno... La Russa assessore come la vede come cosa? Ha ragione Staiti, però se non altro Pisapia darà un cambio rispetto a questo potere che per 20 anni ha governato. Adesso voglio dire, non è che i poteri poi siano diversi gli altri. Cioè, no, Pisapia dovrà comunque avere a che fare con quelli che sono gli interessi reali in una città. Sì, no, sono d'accordo, però bisogna vedere se la politica può tornare a essere oggetto. Oggi è diventata l'oggetto di decisioni che vengono prese da poteri robusti, appunto. E da un milione la definizione di La Russa? Una definizione della Russa degli ultimi mesi soprattutto. Ma lo vedo molto nervoso, eccitato. Eccitato molto eccitato, non lo so, eccitato, forse la carica lo eccita. probabilmente anche da giovane è questo. Era così, no? Volitivo. Volitivo, è un termine un po' eccessivo. Era uno che aveva già ben tracciata una strada da seguire, guidato dal padre. D'altra parte, a Milano, a parte Ligresti, ma abbiamo Ignazio La Russa, ministro della difesa, Romano La Russa, assessore regionale. Vabbè, Vincenzo, che la famiglia La Russa sia potente a Milano, non è Vincenzo che lo La Russa nel consiglio di amministrazione della metropolitana milanese, Osnato, Cognato. nominato nel Consiglio Comunale. E insomma, aspettiamo Geronimo nell'Automobile Club d'Italia, con quella operazione disinvolta, tra virgolette, che è stata fatta dalla Brambilla, e quindi abbiamo ben sistemata la famiglia La Russa. Senta Stati, ma Gaspari per esempio ha detto che in un'intervista che alla fine Pisapia potrebbe anche fare assessore esponenti ex terroristi o cose di questo tipo, un cabaret puro folklore, dici? Ma sa, mi sembra che Gasparri sia il meno adatto a dire certe cose. Perché? Perché forse lui non si è mai esposto in prima persona, però stava nelle seconde, terze, quarte file. D'altra parte, cioè, anche lui era quello che uno di quelli che andava a picchiare nei cortei. D'altra parte, lui ha nel DNA quello dell'informatore dei carabinieri, e sa, come diceva il mio amico Pietrangelo Buttafuoco, tra i carabinieri e la polizia, previsco la polizia, perché i carabinieri hanno ammazzato Ettore Muti e hanno arrestato Pinocchio. Che io, come informatore dei carabinieri, cioè, lo vede come un traffichino, a parte che ha un fratello che è generale dei carabinieri. Questo non è mica un delitto, oh, per carità, non è un delitto, ma non è un delitto essere generale o carabiniere, magari fare l'informatore dei carabinieri non è un delitto, ma è una cosa che in tanti momenti non può essere apprezzata. Allora, un po' di deputati di Futuro e Libertà in realtà sono già andati via, altri forse andranno via. Com'è che ci sono questi abbandoni dentro Futuro e Libertà? Perché vede, chiaramente l'approdo nel porto comodo della destra o del centrodestra non viene abbandonato così facilmente. C'è solo convenienza, secondo lei? Ma non è tanto è una convenienza, direi, politica e intellettuale, addirittura culturale. Voglio dare una dignità. Però, quando si dice noi ci richiamiamo ai valori della destra, bisognerebbe una volta per tutti definirli cosa sono questi valori. Non basta declamarli, non basta dire siamo per la famiglia e al punto di averne 3, 4, 5 o 6. Non basta dire che siamo per la religione e poi nei fatti concreti. Però vuol dire, non c'è troppo anti-berlusconismo in Futuro Libertà, forse è per questo che questi qua vanno via. È per questo che mi è simpatico. Fini, che lei definì una volta l'uomo lebole, certo, l'uomo con il fiore nel culo. Come le zucchine. Come le zucchine, cioè molto fortunato, che significa? Molto fortunato. Senti, qualcuno paragona sempre, non da adesso, Mussolini a Berlusconi. Allora paragoniamo Maria Goretti e Ilona Staller, insomma. Addirittura. Ma scusi, Maria Goretti chi è in questo caso? La storia, come Maria Goretti dice, chi è? Maria Goretti sarebbe? In questo caso sarebbe Mussolini. Sarebbe Mussolini. Non c'è dubbio, con tutti i suoi Mussolini è un politico difetti. Più degno rispetto a Berlusconi, non mi dica questo. Più degno come uomo politico rispetto a Berlusconi? Beh, non Mussolini. C'è dubbio. Lui è un dittatore, però. Lui è passato alla storia, questo passa alle storielle. Bene, pubblicità, grazie. Grazie a Stati di Cuddia, grazie. A tra poco, giornale radio 800 24 00 24. Torna la Zanzara tra un quarto d'ora. Non molliamo, siamo qui, Parenzo. Mai mulà. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Fra poco apriamo i microfoni dopo l'intervento di Staiti di Cuddia. Delle chiuse, se non sbaglio, no? Pronunciato esatto. Bene tutto per intiero? Tommaso Staiti di Cuddia delle chiuse. Benissimo. Maristel Polanco. Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer. E ascoltate cosa deve dire. Berlusconi e Lega all'attacco, no a Milano Zingaropoli, dice il premier Borghezio, rischio estremismo islamico, Schifani, basta offese. Dopo giorni di tensione stretta di mano tra Moratti e Pisapia, spunta un testimone che smentisce l'aggressione alla fan del sindaco. Bagnasco all'Assemblea dei Vescovi, politica ridotta, litigio perenne, la gente stanca di vivere nella rissa e si sta disamorando. Il governo pone fiducia sul decreto omnibus che comprende la moratoria sul nucleare. L'opposizione vogliono eludere il referendum. Il procuratore antimafia Grasso ad Alfano, come dialogare con chi ci insulta? Nel giorno della strage di Capaci, migliaia di giovani a Palermo. Istat, un italiano su quattro a rischio povertà, meno risparmio, meno lavoro, il paese indietro di 10 anni, Fincantieri, migliaia di esuberi. Compie 70 anni l'ultimo grande mito del rock e mezzo secolo di carriera per il menestrello del Village, Forever Young, per sempre giovane. Avanti o popolo, alla riscossa, bandiera rossa. Al TG4, multato come sapete dal giornale radio pochi minuti fa, dalla Gcom insieme al TG1, al TG2, al TG5, a Studio Aperto per le interviste come di mai, Berlusconi, come mai? Al TG4 impazza questa intervista a Marco Rizzo. Marco Rizzo che immagina una Milano riconquistata, è vero, come dice Berlusconi, che tornerà ad essere, anzi diventerà la Stalingrado d'Italia. Io direi, come mai viene intervistato Marco Rizzo dal TG4, pur essendo Marco Rizzo totalmente estraneo in realtà alla partita, perché non è né nel Partito Democratico, come sapete, né in Rifondazione Comunista, né negli alleati di sinistra, cioè Sinistra Libertà del Partito Democratico, cioè né tantomeno è di Milano, perché vive a Roma ed è di Torino, quindi vabbè, è intervistato, sentiamo. Lei ha detto Milano deve diventare la Stalingrado d'Italia. Perché? Non lo era già Sesto San Giovanni? Lo diventerà anche Milano. Dai campi al mare, alla miniera. Io credo che bisogna rivoltare Milano, anche Napoli, come due calzini. Devono diventare città rosse per davvero. Quindi falce e martello? Anche falce e martello ci mancherebbe, soprattutto Milano e Napoli. Ma ti rendi conto o no? Ti rendi conto dell'intervistatore, soprattutto dell'intervistatore, per carità, detto con tutto il rispetto per le autorità civili, politiche, militari e giornalistiche? Marco Rizzo non conta un cazzo. No, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, va benissimo qui alla Zanzara, Rizzo che ci fa... Però lì viene interpretato come una cosa seria, perché nella presentazione di Fede c'è scritto Pisapia riceve l'appoggio di Rizzo. Questa è la cosa. Io credo davvero che per questo ci saranno delle sorprese. Cioè, ma davvero i milanesi credono ancora a questa roba? Cioè, quel 30% del PDL che non è andato a votare, davvero crede che ci sarà Marco Rizzo e i comunisti alla conquista di Palazzo Marino? È propaganda anni 40. È una roba morta, morta, finita, finita. E intanto il nostro amico Borghezio si scatena da Klaus Davi. Milano diventa Leon Cavallopoli. Milano diventerebbe veramente, oltre che Zingaropoli, diventerebbe Leon Cavallopoli. Cioè, questo è il disegno di consegnare la città. Se vince ci sarà la bandiera dell'Islam sul Duomo, però devo dire, per quello che mi riguarda, a Borghezio è concesso tutto, Io penso che se vince Pisapia è come se sventolasse una bandiera islamica sul Duomo di Milano. È vero che la sinistra vorrebbe come successore di Tettamanzi Don Giorgio De Capitani, suggerisce un ascoltatore, adesso non esageriamo. Meraviglioso. Però è straordinario. Roberto dalla Spezia, buonasera. Pronto? Dica, signor Roberto. Buonasera, frase. Innanzitutto, vabbè, ho ascoltato la prima parte della trasmissione e per prima cosa volevo veramente dire che ho ascoltato l'intervento del signor Staiti di Cudia. Delle chiuse. Era meraviglioso, perché io sono... Delle chiuse. Staiti di Cudia, Tommaso, delle chiuse. Me lo sono scritto perché mi ero perso. Tommaso Staiti di Cudia, delle chiuse. Delle chiuse. Potrebbe essere un'interrogazione, questa, un esame, per ricordarsi il nome. Comunque, ecco, devo dire, faccio veramente, è stata una boccata di ossigeno. Perché adesso non esageriamo, cioè, una boccata d'ossigeno. No, assolutamente, perché finalmente qualche parola di buon senso. persona, io sono un uomo di sinistra, lui era dell'MSI. Finalmente si sì, va Roberto, boccate di buon senso, adesso per carità scherzavamo anche con il signor Tommaso Steiti di Cuddia. Certo, lei può interpretare come vuole, secondo lei quello che ha detto il signor Tommaso Steiti di Cuddia delle chiuse è puro buon senso. Va bene, d'accordo. Comunque lasciamola così, ma credo che in cuor vostro lo pensiate anche voi. Ma veramente adesso voglio dire che lo pensiamo anche noi, vuole interpretare quello che pensiamo. Comunque non mi permetterei mai. Comunque, sentite, io il mio intervento era focalizzato anche su un aspetto, sul significato delle parole. Cioè, secondo me oggi si è perso questo profondo significato e bisogna riappropriare certo, cose. Assolutamente. Cioè, per esempio, la parola moderato. Sì. Per esempio, lei, le posso fare un piccolo appunto. Poco fa ha detto, a Borghezio è concesso tutto. Ah, per sì. Quale motivo? Perché mi sta bene così, perché Borghezio, perché mi sta bene così, ma potrò essere padrone di farmi passare Borghezio, di farmi scivolare addosso Borghezio, sì o no? Oppure devo essere additato come una sorta di mostro? Io credo una cosa molto, molto più profonda, per esempio, anche una persona sicuramente intelligente anche come Sgarbi, così sì, che riceve comunque il plauso anche di tutti, però sono persone che piano piano stanno erodendo un senso reale delle cose, no? Un senso reale delle cose, che vuol dire? Una verità oggettiva, che vuol dire stanno erodendo un senso reale delle cose, Roberto? No, capisco. Praticamente che a forza di diciamo andare contro una vera moderazione, sopra le righe, a forza di essere sopra le righe, ecco, praticamente creano una cosa dove tutti possono dire tutto, praticamente toccare gli istinti più bassi, andare di pancia, così, mentre invece anche recuperare le buone maniere. Educazione anche nel rapporto, per esempio, vengono detti moderati persone come Ravetto, Santanché, La Russa, Gaspari, Calderoni. Ma veramente io non ho mai definiti moderati. No, comunque, insomma, nessuno li definisce moderati. Comunque, dai, nessuno. Si autodefiniscono, dice lei. No, si autodefiniscono. Moderato è Tabacci, un moderato per eccellenza. Moderato La Russa, non mi pare. L'amor di Dio, ma sono persone comunque che si rapportano sempre in maniera educata. Quindi, vabbè, la parola lei moderato, sta dicendo che quelli che nel centrodestra, in particolare nel PDL, si definiscono moderati, in realtà sono estremisti. Benissimo. Per esempio. Roberto, adesso non è che possiamo fare un comizio. La ringrazio. Marco dalla provincia di Siena, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Ciao. Niente, come niente? Sento questi comizi che fanno e tutto, sento veramente la gente che si appa a torto in faccia, veramente, che si piglia di si prendono a torto in faccia. Marco, nel senso che è una campagna elettorale milanese che soprattutto da una parte ha toni molto accesi perché bisogna recuperare 30, 40, 50, 70 mila voti, mi sembra che siamo nella normalità, cioè per quello che mi riguarda siamo nella normalità. Ma penso che i milanesi sapranno i programmi di questa gente, l'hanno capito i programmi di questa gente. Ah, non lo so, guardi, per me i programmi non contano nulla per quello che mi riguarda, però... Vabbè, ma almeno un minimo, la politica dovrebbe essere fatta... Sì, per carità, però... No, però cioè... fondamentalmente, vedi, i programmi, se quello ha fatto un programma per rubare la macchina, se quello ha fatto un programma per andare a puttane, cioè questi programmi lì, proprio sulle altre cose non vedo... Vabbè, si informi, si possono leggere sui giornali, programmi, su internet... Però scusi amico senese, a Siena ad esempio si è votato per il comune, il signor Nannini del centrodestra, il grande pilota, voleva sfidare il centrosinistra, ma lì sui programmi, lei pensa davvero che il signor Nannini se avesse vinto avrebbe distrutto Siena? Pensa davvero questo? E allora? Penso questo fatto io. Ma probabilmente perché... Su via, mi faccia coglioni subito. Borsa, torniamo tra un attimo. Eccoci, 19.36, 800 24 00 24, Parenzo in collegamento da Assago. È così. Intanto è così. Mario da Roma, buonasera, sempre 800 24 00 24. Prego Mario. Buonasera Cruciani. Dica. No, io diciamo l'ascolto sempre volentieri e normalmente sono d'accordo con lei, però diciamo sulla sua opinione riguardo al, diciamo, alla possibilità in campagna elettorale di dire qualunque cosa, sinceramente non concordo. Cioè, un giovane che deve votare, una persona può cambiare idea, cioè su che cosa si deve basare poi la fiducia che un elettore ha nei confronti? No, io ho detto un'altra cosa Mario, io ho detto che in campagna elettorale è concesso tutto, poi uno in teoria dovrebbe pagare le promesse che non vengono evase, le stupidaggini che dice, quando uno fa delle promesse troppo grosse, poi uno alla volta dopo... Totalmente seriamente che non ho colto l'ironia. No, ma non è ironia, è la realtà. Cioè, in una campagna elettorale è tutto concesso. a livello di promesse. Uno può promettere quello che vuole, se vuole che queste promesse però vadano a segno, se vuole che queste promesse colpiscano l'elettorato, almeno devono essere fatte in maniera unitaria dai componenti di una coalizione. Abbiamo assistito nel caso dei ministeri a Roma a una cosa ridicola, con Bossi che ha detto una cosa, Berlusconi che ha detto forse i dipartimenti, e una parte consistente del centrodestra, soprattutto romana, che ha bloccato tutto dicendo allora, che è una follia. Se me lo consente, cambierei un attimo argomento e passerei all'intervento della Santolini che lei ha mandato in onda all'inizio di trasmissione. Sì. Io diciamo conosco personalmente l'onorevole e mi ricordo che tempo fa lei diciamo la criticò perché faceva parte del gruppo Amici per la Cina. In realtà quel gruppo non è Amici della Cina. Francamente non me lo ricordo e credo di non averla criticata perché appartenesse al gruppo Amici per diciamo, della Cina. L'ha comunque derisa in questo senso. Ma non mi pare proprio, Mario. Cioè, io non garantisco perché vabbè, diciamo, allora, lei affronta tanti argomenti, io diciamo questa cosa la ricordo con non mi pare che la possa avere derisa perché faceva parte del gruppo Amici della Cina. Perché lei non aveva inteso il senso di Amici per la Cina, cioè non è Amici del governo cinese. Ma scusi, ma Mario, ma posso dire, posso aggiungere chi se ne frega di questa storia di Amici della Cina? Che ci importa a noi di questa storia? Era semplicemente per puntualizzare una cosa, visto che ha, diciamo, comunque è tornata nuovamente sulla Santolini. Tra l'altro, diciamo, ho sentito l'intervento a metà, quindi non so neanche se in questo senso. La signora Santolini, deputato dell'UDC. Forse più tardi, forse chiameremo, ha detto che la pedofilia è una tendenza sessuale come la eterosessualità, l'omosessualità, eccetera, eccetera. La è una follia pura, una pura follia. Perfetto, ma io diciamo mi riferivo non all'intervento di oggi, ma Mario, ma non sapeva di che cosa si parlava. Può darsi, non so molte cose, per cui è possibile. Diciamo, la apprezzo, la rispetto, però. Diciamo, se ogni volta, cioè, Mario, io capisco che lei è amico dell'onorevole Santolini, ma noi non è che ci tra l'altro, cioè, neanche ne condivido l'orientamento politico. Vabbè, quindi, Mario. Lei si ricorda, saluti, se ci saluti, onorevole Santolini. Okay. Comunque, lei si ricorda di una volta in cui io l'ho criticata perché apparteneva ad un gruppo che si chiama Amici per la Cina. Non so, ma che ci importa a noi? Marco da Treviso, buonasera. Buonasera, signor Cruciani, buonasera Parenzo. Siete il miglior aperitivo prima di una buona cena. Oh, bene, grazie. Oh, e questa sera avrei proprio voglia di una buona cenetta a base di pesce. Anche se so che sto andando a casa, mi aspetta una bella pasta con il burro. Vabbè, Marco, adesso voglio dire. Incredibile di interesse per la Sole 24 Ore. È una cosa di interesse mondiale, caro Marco. Noi siamo però molto, molto vicini alla sua. Le sue peripezie, perché tra l'altro non capisco perché lei non possa scegliere tra il pesce e la pasta al burro, non è che la costringono a mangiare. Non dovrebbe abitare a casa mia, dovrebbe conoscere la situazione di casa mia. Il pasta al pesce è un po' più complicato da fare, la pasta al burro è un po' più veloce, insomma sono cose. Vabbè, ho capito, Marco, ma adesso io non so chi cucina, se sono la sua compagna, sua moglie, sua madre, dica alla persona incaricata di questa cosa qui di comprare del pesce e di cucinare la pasta al pesce. Proverò su così. Bah, misteri. Mi ha chiamato per questo, amico mio? No, non per questo. Ecco. Allora, comunque ci tenevo a esporre un pensiero relativo alle elezioni amministrative di Milano, un po' fuori argomento, insomma. E soprattutto sulla signora Letizia Brichetto Arnaboldi, sì, che tutti conosciamo come signora Letizia Moratti, su, dico. Sì. Ecco, la mia riflessione mi è data un po' sulla campagna elettorale della signora Moratti. La Moratti, secondo me, ha fatto una campagna elettorale sicuramente impegnativa, ma un po' troppo sopra le righe. Intendo, sentendola nelle varie interviste... cosa ha fatto sopra le righe la Moratti, fino al primo turno. Le stavo dicendo, appunto... mi è sembrata, un mio modesto parere, un po' aristocratica, comunque abbastanza distante dagli amici di Milano. Vabbè. Poi... quando ha riscontrato di non essere, diciamo, più sicura della vincita, l'elezione ha tirato fuori un bellissimo colpo basso al signor Giuliano Pisapia. Vabbè, questo lo sappiamo, Marco, ne siamo a conoscenza. Adesso, perfetto, dunque... che è bello quando fa la radice quadrata delle cose che devo dire. No, ho capito, lei ci sta facendo la cronologia di quello che è successo. Arriviamo al dunque, appunto, Marco, arriviamoci prima, allora, forse a me. Arrivo a questo. Alla fine del faccia a faccia con Giuliano Pisapia... Sì... attaccato in un momento secondo me sbagliato, senza benissimo, dare la possibilità di difendersi, e quindi questa è una situazione secondo me è un po' da vigliacchi, mi passi pure il sì termine. Ma sono cose che conosciamo, credo... Marco, cioè lo sappiamo che è così, è successo l'ultimo secondo prima, secondo lei è da vigliacchi, benissimo, cosa ha superato, cosa... è passata una settimana, che vogliamo aggiungere? Adesso arriviamo a quello che penso io. Ecco, finalmente sono passati 2 minuti e mezzo, sì. Bene, non parlo più di cibo adesso. No, ma allora, lei non ha parlato solo di cibo. Cioè, sono passati tre minuti, Marco, tre minuti. Faccia lei. Mia, come vola il tempo. La persona Moratti, secondo me, posso dare un epiteto tipo persona ricca? Ricca intesa con un bel portafoglio. Sto sognando o sono sveglio? Mi faccia finire, poi dopo vedrà che sogniamo insieme. Sì, sogniamo insieme. Allora, cosa voglio dire? Una persona ricca, un'altra persona ricca andando dall'altra parte dell'oceano, mi perdoni il distacco un attimo. Un'altra persona si chiama Strauss-Kahn, spero di averlo nominato bene. L'ex direttore no, ha pronunciato male, ma non fa niente. Vabbè, scusi. Io sto sognando, Parenzo, mi sembra di sognare. Io sto schiumando, c'è il sudore. Poi mi mandi l'ambulanza che l'aspetta. No, ma qui non c'è bisogno. Non è possibile neanche mandargliela, si rifiutano a questo punto. Perché bene, è partito, partisce, è arrivato Strauss-Kahn. Arrivo al bello, capisci? Faccia finire cosa? Allora, continua a dire faccia finire. È stato arrestato per un presunto stupro. Sì. E lui cosa ha fatto? Siccome ha la possibilità, a differenza di tante altre persone, ha pagato $1 milione. Ma no. Ed è uscito su cauzione. Ma no, è una cosa nuova. La signora Moratti, adesso visto che poi la signora Moratti cosa ha fatto? Moratti ha detto, siccome è abituata magari a gestire, magari ad avere un sacco di soldi, ha detto a ottobre togliamo l'Ecopass ai milanesi. Io sto sognando sempre. Poi avrebbe annullato le multe relative all'Ecopass del milanese. No, non gestisce più solo il suo portafoglio, ma anche quello che viene gestito dalla sua giunta e anche da lei. Praticamente cosa ha fatto? Ha pagato, tra virgolette, il suo $1 milione per salvarlo. Bene. Vorrebbe pagarlo. Mamma mia. Vorrei mamma dire mia. Alla signora... Sì, invece è così. Vorrei dire alla signora Moratti... Quanta confusione! Il mio professore di latino lo diceva sempre. Quanta confusione! Arriva stavolta, l'ho trovata, Davide, l'ho trovata. L'ho trovata. Portatelo via. Portate via il signor da Treviso, portatelo via, arrivate. Perfetto. Su. Signor Marco, mi dà la coordinata esatta però, allora, esatta, precisa. Vede lago, benissimo. Vede lago, vicino, anzi praticamente mi sono fermato dove c'è l'Agip. Benissimo. Vede lago, stia là, fermo. Tanto mi sa che... aveva voglia di farsi venire a prendere una bella ambulanza. La ringrazio. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, collegamento con Marco Cappato. Buonasera a voi, come sta? Grande. Bene, grazie. Lei? Non c'è male, me la cavo, combatto. Dove si trova, caro Cappato? A Milano a fare campagna elettorale. Milano. Grande. La lista Pannella, Bonino Pannella, che entrerà in consiglio comunale se dovesse vincere Pisapia. Praticamente, grazie, se trionfo vince, dei radicali a Milano. Moratti entra... Lei se ne va a casa. Entra Lassini, quello dei manifesti. Non è che ci puoi dire, entra tanta altra gente, non solo Lassini. Comunque sì, accetto. Faccio un esempio, posso fare un esempio? Sì, faccio un esempio. Questo era un esempio, se vince Pisapia... Dunque, lei vuole dire, chi scegliete, Cappato o Lassini ai milanesi? Sì. La scelta è Cappato da una parte, Lassini dall'altra. Benissimo. Parenzo, tu che scegli, Cappato o Lassini? Vabbè, ma io sai che sono di... Io non c'è dubbio, sono radicale, cioè ho votato radicale. Ma quindi... non voti a Milano. Non conta, Parenzo è innamorato di me. Sto non spostando la residenza. È innamorato di te, ha detto Cappato, che sei innamorato di lui. Anch'io di lui, siamo... Siete innamorati a vicenda. Lui presentava delle piccole televisioni private in Veneto e da allora... Siete amore, è stato amore a prima vista, insomma. No? Parenzo, che dici? Volevo dichiarazione in diretta. Adoro le battaglie dei radicali perché poi hanno questo modo così. Ma lui diceva scusa, il signor Cappato dice semplicemente che tu sei innamorato di Cappato come uomo politico, mica come uomo. Lui, Vina Westi, Luca Coscioni, sono grandi battaglie di civiltà, secondo me. Poi, senta, signor Cappato, volevo capire una cosa: se lei dovesse entrare, sempre nel caso in cui dovesse vincere a Pisapia, naturalmente, in consiglio comunale. Vorrebbe che Milano diventasse una sorta di città molto aperta al turismo omosessuale, perché per esempio, siccome si è parlato molto anche nei titoli di giornali in questi giorni, in maniera critica da parte del centrodestra, Milano diventerà la Mecca dei gay, secondo me moltissime città europee, come gli ascoltatori sanno, hanno promosso in realtà il turismo omosessuale e promuovono dal punto di vista della pubblicità eccetera l'arrivo degli omosessuali nelle città, perché naturalmente questo porta ricchezza a queste città. Berlino, Barcellona, eccetera. Cioè, lei trasformerebbe Milano da consigliere comunale in una città gay friendly? Ah, intanto Giuliano Pisapia ha messo nel programma una questione che è meno così, meno affascinante del punto che lei sta ponendo ora, che è più di diritto, però è anche importante la questione dei registri, delle unioni civili, perché riguardano dei servizi comunali che non si capisce bene perché non debbano essere. Cioè, in questi registri cosa ci dovrebbe essere secondo lei? Lasciamo perdere il programma. Secondo Marco Cappani, in questi registri cosa ci dovrebbe essere? Per esempio, i servizi che possono riguardare la casa, alcuni servizi comunali del genere, non vedo perché il comune debba tenere fuori. Cioè, nella graduatoria delle case, eccetera, bisogna tenere. Dello stesso sesso. Bisogna perché considerare le coppie omosessuali. La questione invece che solleva lei e non è nemmeno legata all'impostazione ideologica, cioè evidentemente la Moratti, chi la sostiene, pensa di spaventare così la gente, no? I gay, arrivano i gay. Sì. Secondo me la gente, proprio la gente magari più tradizionale o tradizionalista non si spaventa per queste cose, ma non è nemmeno una questione ideologica, è una questione economica, cioè tutti sanno che il turismo, ci sono tante forme di turismo, il turismo delle persone omosessuali che chiedono un certo tipo di servizi, sì, è un turismo che rende alla città, che si attrezza per loro, significa che mette a disposizione delle guide, delle informazioni, cioè noi non è che vogliamo l'omosessualità di Stato o di comune. Però lei dice, per esempio, delle guide comunali o delle luoghi dell'omosessualità. Io dico che nell'ambito dei pacchetti turistici che il comune cerca, che è il suo ruolo, insomma, di facilitare l'attrattività di una città, facilita di giorno e di notte, la si facilita sulla cultura e sull'ambiente, sullo sport, su tante cose, non si capisce perché si deve cogliere l'occasione anche economica di mettere le informazioni a disposizione. Noi siamo liberisti, sapete, non siamo statalisti, non crediamo che spetta allo Stato, a nessuno. Però il comune, dice lei, il comune dovrebbe promuovere però il turismo omosessuale in diversi modi, per esempio, che ne so, mi dico una cosa, sul sito i pacchetti di l'informazione, le brochure, cioè il comune deve avere un ruolo abbastanza indiretto, nel senso che poi la promozione, ma questo su tutto, non in generale è bene che sia il mercato a funzionare, quindi che siano gli albergatori, i locali, le sfilate di moda, tutte queste cose saranno loro a fare le proposte. Il comune deve semplicemente agevolare che si metta in contatto la domanda con l'offerta. Allora, ecco, io non ho capito una cosa, scusami direttorissimo e onorevole Cappato, la questione è questa. Non so, se uno va a Roma o anche a Milano, dice il turismo religioso, dice andate a vedere il Duomo o andate a vedere il Cenacolo, no? Quindi questo è molto chiaro qual è la Milano religiosa da vedere. E invece Milano in questo cattolico. Caso cosa si dovrebbe promuovere? Scusa. In questo caso, i locali gay, cioè il comune dovrebbe promuovere i luoghi di come dire, dove si trova la comunità omosessuale milanese, secondo lei, Cappato? In questo caso il comune, più che promuovere i luoghi, solitamente è il soggetto che è meglio nelle condizioni di mettere in rete le informazioni. Mm. Cioè, se ci sono una serie di locali, per esempio, che vogliono promuovere, non so, una settimana di eventi legati alla cultura omosessuale o al cinema. Certo. Per esempio sul sito del comune nel sito del comune ci dovrebbe essere una come dire, una sezione apposita di promozione del turismo omosessuale. Ma neanche perché poi non deve essere neanche una cosa ghettizzante, cioè come ci sono tanti eventi culturali, certo, anche che possono interessare delle minoranze, possono essere eventi culturali. Cioè lei che farebbe, cioè, se dovesse diventare consigliere comunale a Milano, cosa farebbe da questo punto di vista? Francamente lascerei la creatività poi di chi deve fornire i servizi, perché non decido io da comune che bisogna assolutamente fare la rassegna del film omosessuale, però credo che ci sia per esempio tanta cultura. Per esempio il famoso, come si chiama, il giorno, la festa omosessuale, il Gay Pride. Lo farebbe a Milano, lei lo promuoverebbe a Milano il Gay Pride? Ma sì, ma questo mi sembra anche scontato. Che le istituzioni che sono, persino Alemanno ha dato il benvenuto a Roma ai gay per l'Euro Pride, insomma non mi sembra giusto, in campagna elettorale qualche giovanardi di turno si può spaventare per questi per i femminielli a Napoli, sì, come ha fatto. Sì, poi combattuto, insomma, l'IKEA quando fa la pubblicità sì, dicendo siamo aperti a tutte le famiglie, non è che è lì che fanno i radicali, come sapete tutti noi rompiamo le palle alla gente per i diritti, certo, eccetera. No, loro semplicemente hanno capito che in termini sociali, la realtà sociale delle famiglie di fatto è una realtà così diffusa che sarebbe stupido sbattergli la posta in faccia. Per cui dal punto di vista per esempio del turismo, il turismo omosessuale porta ricchezza, porterebbe ricchezza a Milano, promuovere questo, il turismo omosessuale. Veramente non lo dico io, lo dicono tutti gli studi di settore, dicono che è una forma di turismo particolarmente, diciamo, nuova, dinamica e anche di una certa capacità di spesa e di voglia di spesa, mi chiedete perché, non lo so, ma è così. Allora, il fatto che solo per dare retta a un giovanardi di turno, che poi, voglio dire, loro credono in questo modo, credo, la mia interpretazione di essere ben visti a questo punto dalle gerarchie ecclesiastiche, che diventano più zelosi delle gerarchie ecclesiastiche, che tutto sommato a volte si distraggono. Senta, anche Cappato, voglio chiedere una cosa, ma qualcuno ha parlato nei giorni scorsi della questione delle stanze del buco, no? Ecco, lì è stata una piccola. Sì, purtroppo loro continuano a mettere dei manifesti in giro per Milano con le cose false. Allora, le stanze del buco non sono nel programma di Pisapia, sono, è vero, una idea che c'è in tante città. Per esempio, ecco, ma lei la farebbe a Milano, per esempio? Io penso che, come ha fatto a Madrid Aznar, quindi stiamo parlando della destra, e tante amministrazioni di destra in Germania, io penso che purtroppo, piuttosto che lasciare morire di overdose o di AIDS la gente agli angoli della stazione centrale di Milano, se si creassero dei luoghi dove sotto controllo medico queste persone possono avere la vita salvata e poi magari anche un minimo di assistenza sociale, credo che alla fine costerebbe meno la comunità. Cioè, lei da consigliere comunale promuoverebbe delle camere di somministrazione controllata, cose di questo tipo. Perché stanze del buco sembra che gli sbatti dentro e li lasci morire. Vabbè, Una cosa simile però. Sì, no, ma è importante perché a Zurigo, per esempio, avevano prima creato un parco dove tutti potevano drogarsi liberamente, era stato un disastro perché arrivavano dappertutto. Poi invece l'hanno fatta come una cosa controllata, tra l'altro aperta ai soli residenti, quindi con un diritto di assistenza medica, e da 12 anni addirittura usano l'eroina per questi tossicodipendenti, hanno provato 3 volte con dei referendum a abolirle, e come per l'eutanasia i referendum hanno sempre vinto perché anche i conservatori di destra preferiscono avere queste persone curate piuttosto che averle. Dunque, lei da consigliere comunale promuoverebbe queste iniziative come quelle di Zurigo. Certo, io credo che questa sarebbe una cosa da fare, dopodiché so che non è il programma della coalizione, spero di convincere prima la città e poi la politica, perché di solito la gente sta un pochino più avanti della politica. Ma Pisapia sarebbe d'accordo, secondo lei? Non l'ha inserito nel programma, quindi non so dire se. Però una volta una volta mi sembra che fosse d'accordo. No, lui individualmente è sicuramente persona laica e libera. Dunque è d'accordo, no? Sì. Dopodiché è chiaro che la politica, la coalizione, la coalizione. Ma scusa, Cucciari, questa qui è una proposta contro la morte, non è un paradosso. Vabbè, però lasciamo perdere adesso la discussione. Grazie a Marco Cappato, grazie. Giornale radio, anzi no, che giornale radio? C'è la pubblicità, poi telegiornali. 800 24 00 24, torniamo tra un attimo. Caro Parenzo, che dici? Questo è il nostro Cappato che ha regalato queste notizie, ma a me sembrava, se non vorrei sembrare di parte, però cose di buon senso. Cioè, esiste il turismo religioso e deve esistere il turismo sessuale. Non vedo uno scandalo. Berlino è una capitale nota in tutto il mondo e nelle guide sono segnalati. Io non ci sono mai andato, ma voglio dire, perché ho altri gusti, mi piacciono altre cose. Ma insomma, lo trovo un fattore di civiltà e anche dal punto di vista economico. Tutti si scandalizzeranno, vedrai domani i giornali, vedrai domani il nostro amico Sandro Sallusti. Ecco la città di Pisapia, tutti gay e drogati. Hai fatto già il titolo a Sallusti, se lo vedrai Sallusti domani, il nostro amico Sallusti domani, vedrai, tu ridi amico mio, qui stanno a giocare con i voti, domani Sallusti su il giornale, ecco gay, a meno che non metta froci, perché secondo me adesso i cavalieri, a 5 giorni vedrai che userà la parola froci e drogati a Milano. Ci sarà la Madonnina infilzata da una siringa, tutti vedrai cosa farà. vogliono fare la stanza del buco dentro il Duomo. Vedrai che dirà questo. Allora. Stanza del buco dentro il Duomo. E vedrai che andranno sempre oltre. Vedrai. Vogliono fare. Pisa Pia vuole fare la stanza del buco dentro il Duomo. Sandro da Milano. Così sarà il Sandro. Chi è sto Sandro da Milano adesso? È un ascoltatore, vabbè. Non è Sallusti. Sentiamolo, va bene, sentiamo. Pronto. Dica, Sandro, come sta? Bene, lei? Non c'è male, combatto. Dica. Meno male. Senta, io volevo intervenire su questo fatto. Io sono di sinistra, ma di sinistra non estrema, perché sono un ex PC, amendoliano, sono d'accordo con Napolitano su tutto da 30 anni, 40 anni. Vabbè, Sandro, adesso non mi sembra... Dopo l'ascoltatore di prima, riparto con lei... Riparto con lei, mi sembra di sognare ancora una volta. Sono di sinistra, però amendoliano, dunque sto con Napolitano. Non mi faccio diventare pazzo. Corrente migliorista, ma caluso, ma però tendenza a Cervetti. Ma che roba è? Okay, esatto, sono un militante di PC. Immaginavo. L'età di ormai da 55 anni, 60. Vabbè, comunque. Niente, io volevo chiedere questo. Io sono molto... Così, non capisco veramente il centrodestra cosa sta facendo. Mi sembra addirittura che... Dacchi diano già per perso l'elezione a Milano, e di fatto è un punto matematico. Se perché lei dice che danno già per persa a Milano? Ma perché questa politica qui, la propaganda che stanno facendo, questa storia dei ministeri, per esempio, questa divisione sui ministeri. Di tutto. Prima ha criticato che la Moratti aveva ceduto, poi dopo invece a Moratti gli hanno detto meno male che tira fuori le unghie. Non stanno facendo una propaganda che a me viene un dubbio, che questi qui diano per perso e vogliono fare un tentativo di misurare il loro zoccolo duro di... Questo non lo so, ormai quello che devono misurare l'hanno misurato, perché non ci sono più i voti per le liste, si votano le persone, per cui certamente questa storia dei ministeri significa che non c'è una regia, caro Sandro, non c'è una regia elettorale, significa che Berlusconi non c'è più, è scocciato, non gli va. Significa che è la casa delle libertà, ognuno dice quello che cazzo gli pare. No, ma non è quello, il discorso è questo, che io sono milanese. Allora? Sono in minoranza a Milano perché è una città di moderati, che hanno votato uno di Pisa Pia, che ho votato io così, anche se non molto contento, ma solo per bandiera, sì. E che hanno votato lo stesso, sapendo pure perché ne hanno piene le quelle che diceva prima, le scatole. Di chi? Di che cosa? Della Moratti o di Berlusconi? Di tutti, di Moratti, di Berlusconi, perché la Moratti... Di tutti. E non è nessuno, è uno che spende 20 milioni per fare una... No, 20 milioni, non esageriamo adesso, eh. No, l'ha detto Albertini lì da voi, oltretutto. Sì, sembra 12, però in realtà a bilancio c'è 4, magari è a disposizione della campagna elettorale 12 milioni di euro. Va bene, d'accordo Sandro, grazie. Dove andiamo? Antonio, provincia di Venezia, buonasera. La mia stima, dottor Cruciani, verso di lei, verso grazie. La trasmissione. Grazie, mi Antonio. Mi permetta però, così, da cattolico professante, se mi permette, sì? Di essere un po' indignato, insomma. Per chi? Per che cosa? Ma un po' quelle affermazioni lì da parte di Cappato, un po' anche del suo collega, che seppur stimo molto per la sua simpatia, però promuovere il turismo gay, cioè dal mio punto di vista... Oh, sì. Signore... No, ma è inutile che sospiro anch'io, ma mi sospiro di indignazione, perché mi consento di dirle. Dica, Antonio. Che io faccio un ragionamento semplice e pulito, cioè io ho il rispetto assoluto verso tutte le persone che esistono al mondo, di razza, di nazionalità, di tendenze, eccetera. Dunque? Il fatto di dire dobbiamo promuovere un turismo gay è sostanzialmente dire il contrario di una tutela, o sostanzialmente quasi quasi volerli far sentire diversi. Ma perché non li lasciamo liberi? No, mi scusi, Antonio, allora ci sono grandi città in Europa, sto parlando di Barcellona, sto parlando di Berlino e altre città ancora. No, ma lasci perdere il fatto che lei l'abbia visitata. Non è che possono entrare solo gli omosessuali in quelle città. Che fanno della promozione turistica per le coppie omosessuali, della promozione turistica per le coppie omosessuali, un punto di forza. Mi spieghi perché è sbagliatissimo? Io rispetto la sua idea. Se mi permette... Sì. A me queste esasperazioni, in qualsiasi senso, sì. Cioè questi estremismi, cioè quasi voler forzare, ripeto, farli sentire comunque diversi, perché se uno va a promuovere vuol dire che tu praticamente emani, diciamo così, un sentore che a tutti i costi deve far trasparire. apparire quelle persone che sono in oggetto come delle persone che in tutti i modi devono essere inseriti, devono essere coinvolti. Ma non è vero, Antonio, c'è un settore di business che riguarda il turismo omosessuale, è inutile nascondercelo, è così. C'è allora, una parte. Allora, perché no, da parte di questi, diciamo così, condottieri politici, non parte un'idea nel promuovere, che ne so io, delle gite, delle visite guidate? Ma guardi che famiglie, ci sono, ma scusi, come, come un esempio concreto, esempio a Berlino c'è un bellissimo, dove sono stato qualche un anno fa, c'è un bellissimo museo che è il museo del sesso, ad esempio, è un museo segnalato sulle guide, museo del sesso, dove ci, se vuole entro anche nel dettaglio di quello che c'è in no, questo meglio di no, museo. Per il momento meglio di no. Di Berlino, museo meraviglioso, museo del sesso a Berlino. Non si capisce perché non si può segnalarlo nelle guide, visto che uno va a vedere la cattedrale, va, uno va al Duomo, uno va a vedere il Cenacolo, e perché non può andare a vedere, ma non ci sarà mai a Milano purtroppo un museo del sesso, museo del design però, il design è un'eccellenza milanese. Allora che male fa il museo del sesso ad esempio? A Berlino, cioè, Berlino è invasa di assatanati, non mi pare, è periodo intellettuale. Cioè, anche il museo del sesso, dov'è il problema? Qual è il tema? Cioè, Antonio, esiste un settore del turismo, turismo omosessuale, ecco, che deve essere stimolato. Insomma, vogliamo guadagnare quattrini o non li vogliamo guadagnare sti quattrini? Guardi, secondo me per fare soldi basterebbe avere dei buoni amministratori che sappiano sfruttare ciò che l'Italia offre a tutto il mondo, ovvero cultura. Vabbè, ma certo, però, Antonio, ma non è che una cosa esclude l'altra. Abbia pazienza. Sì, ma cioè, mi ma devo fermare, azione. Pubblicità, torno su, resti con me, non se ne vada. Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora. Cantiamo insieme, Parenzo. Mi è venuta un'idea. Per padri e figli. Che idea ti è venuta? No, che la Moratti potrebbe contrapporre alla proposta di Cappato di trasformare Milano in città gay friendly, sì, la città dei responsabili. Bellissimo. Ah, dici? Cioè, potrebbe fare la città amica dei responsabili. Pensa quanto turismo ci sarà qui, no? È meraviglioso. La città dei responsabili, amica dei responsabili. È idea geniale. Nostra vita, intanto che va, un solo cuore in questa odissea. Arturo Iannacone, buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta, caro Iannacone? Bene, grazie. Allora, ma questa musica lei l'ha un po' abbandonata, mi dica la verità. Guardi che non ho sentito bene, quale musica? No, questo è l'inno dei responsabili, in realtà è l'inno del movimento di responsabilità nazionale di Scilipotiana memoria, diciamo, no? Bisogna distinguere, perché forse lei no, lo so, non lo è so, sufficientemente lo so. Informato. No, io sono molto informato, cioè, movimento di responsabilità bene, nazionale no, è una cosa, è appunto, iniziativa è responsabile, iniziativa responsabile è un'altra cosa. Che è un gruppo federato. Dove assolutamente. Più. Bene, gruppo adesso. Noi gruppo, Sud. Allora, chiarito questo, andiamo avanti. Noi Sud è ancora un'altra cosa, ed era il gruppo a cui apparteneva lei fino all'altro giorno. No, io appartengo, io sono il segretario nazionale di Noi Sud. Abbiamo, non era stato cacciato, scusi, dal signor Scotti, dal signor Sardelli, no, guardi, anche o no? Guardi, Scotti e Sardelli non possono cacciare nessuno, perché nessuno. Come le dicevo, io sono il segretario nazionale, sì, abbiamo fondato il partito insieme e sì, abbiamo. Ma loro dicono che lei non è più segretario? No, abbiamo stabilito nell'atto fondativo che le cariche durano fino a quando verrà celebrato il congresso. E quindi, cioè, ho capito, ma se loro dicono che lei non è più segretario, lei si autoproclama segretario? Non ha nessuna autorità né politica né giuridica per poter fare un'affermazione. Cioè, in questo momento, secondo Sardelli e secondo Scotti, il segretario chi è? Scotti? Secondo Sardelli e Scotti non lo so, secondo quanto recita il nostro atto fondativo, io sì, sono il segretario nazionale, rimango nella pienezza delle mie funzioni. Ma loro che dicono invece? Scotti è il presidente. Loro che dicono? Che Scotti è pure segretario? O sbaglio? Loro hanno sostenuto questo in un incontro che io ho definito sì, tra tre amici al bar, che quindi non avendo una valenza siete giuridica, no, non produce alcun effetto politico. Non è che voi siete, non è che voi siete, non è che siete un'armata voi rispetto a loro. Io chiedo scusa, per le persone, ma purtroppo come dire, la dialettica c'è anche nei partiti più piccoli, no, certo, anche prima. si è sviluppata anche adesso, ma la questione è relativa soprattutto alle prospettive del movimento, che secondo la mia opinione e quella della stragrande maggioranza dei nostri amici è di contribuire alla nascita del grande partito del Sud. Senta, scusi, dopo Noi Sud che cosa c'è allora? Cioè, lei in questo momento è di Noi Sud, è ancora di Noi Sud oppure di un'altra formazione? Non si è capito bene questa cosa. Allora, le ripeto, io sono il segretario nazionale di Noi Sud. Abbiamo ragionato con l'onorevole Belcastro, che è il vice segretario nazionale, di una doppia prospettiva. Una è quella di dare vita ad una federazione tra i partiti politici che attualmente sono rappresentati in Parlamento e che si richiamano al Sud. L'altra è quella, la massima aspirazione di un partito politico, di dar vita a gruppi parlamentari autonomi appena si creeranno le condizioni. E come fate? Bisogna essere in 20, Iannacone? Bisogna essere in 20, i parlamentari del Sud disponibili ad impugnare. Cioè, in questo momento siete lei e Belcastro, o sbaglio? No, in questo momento io e Belcastro siamo di Noi Sud all'interno del gruppo dei responsabili. Esatto. Ma ci sono parlamentari che sono disponibili ad entrare in un gruppo parlamentare Sud, che fanno parte Sud, della no? maggioranza, ma che sono anche fuori dalla maggioranza. Ci sono anche parlamentari che non hanno mai votato la fiducia al governo e che potrebbero entrare a far parte di questo gruppo. Stiamo lavorando in questa direzione, evidentemente. E lei come lo chiamerebbe questo gruppo? Sud? Semplicemente così? Sud. Guardi, diciamo una curiosità oggettivamente giusta, però se rivelassimo il nome prima di averlo registrato ci potrebbe essere rubato. Evidentemente ci sarà la denominazione Sud, che è stata già la denominazione di una lista unica sul nome che abbiamo presentato a Reggio Calabria e che ha ottenuto il 5% dei consensi, sia al comune capoluogo che alla provincia, nonostante la grande frammentazione, perché come lei sa anche voi contribuite alla frammentazione, tra l'altro. Ma le vorrei... Noi siamo per ridurre la frammentazione. Ma come per ridurre come ridurre la frammentazione? Scusi, hai ragione. Ma ci sono 5 partiti che si chiamano Sud, Noi Sud, True Sud, Forza Sud. Ho capito, ma non è che le divisioni, non è che l'ho fatte io. Lei era nel gruppo di Iniziativa Responsabile, giusto? Allora, guardi... Lei è uscito dal gruppo Iniziativa Responsabile o no? Le ho detto, siamo nel gruppo di Iniziativa Responsabile con la prospettiva di costituire gruppi parlamentari autonomi. Appunto, cioè, non è che le divisioni le promuovo io, cioè, il mondo è frazionato, la politica è frazionata anche per il vostro contributo, non è che solo... No, per niente. Io non capisco per quale ragione non sia legittima l'aspirazione dei territori meridionali di costituire un partito di questo. No, ma è legittima, Iannacone, certo che è legittima, però... È una sorta di razzismo politico inaccettabile. No! Addirittura razzismo politico, esageriamo, su, Iannacone. Ogni tanto, visto che se ne sparano tante, consentitemi anche a me di dire qualche espressione che può andare anche un po' al di sopra di quello che... Ma lei deve assolutamente. Andiamo al traffico, torniamo subito dopo il traffico, caro Parenzo. So che devi andare via, ma ti lascio libero tra una ventina di minuti, circa un quarto d'ora. Poi se vuoi andare via prima, vai via, vai pure via. Eccolo, Avrà responsabilità nazionale. Capito, Parenzo? Però io sono appassionato di questa canzone, so che non c'entra niente con Arturo Iannacone, per carità, di Noi Sud, perché è un'altra cosa, questa è la canzone di Scilipoti, però insomma il signor Iannacone è nello stesso raggruppamento parlamentare del Movimento di Responsabilità Nazionale. Per cui insomma così lontana non è. Senta, signor Iannacone, che ministero vorrebbe lei al Sud, siccome voi siete, dite, i paladini del Sud? E siccome c'è questa storia di ministeri al nord, magari pure qualche ministero al sud non sarebbe male, no? Io le dico subito una cosa. Mi dico una Secondo me i ministeri bisogna farli funzionare. Poi sono a Roma, a Milano, a Napoli o a Palermo. Ha detto una cosa responsabile, però, io ricordo. Se poi, e voglio stare al gioco, Vogliamo ragionare su quali ministeri delocalizzare al sud. Evidentemente al sud andrebbero bene ministeri che potrebbero sviluppare quelle che sono le ricchezze del sud, e quindi agricoltura, turismo e ambiente. Mi sembra che siano tre ministeri che... Dunque lei porterebbe, dove li porterebbe? A Napoli, a Palermo, questi qua dove? Guardi, io non li dove ce li vedrebbe bene? Ambiente, agricoltura e turismo. E turismo, quindi sono... Li distribuiamo, che ne so, uno a Bari, uno a Palermo, uno a Napoli. Guardi, no, io le ho fatto la premessa, per me i ministeri devono funzionare e basta. Quindi dunque restano a Roma, al sud non ce li vogliamo i ministeri. Possono rimanere a Roma, se vogliamo ragionare per gioco e quindi discutere su dove e quali ministeri localizzare al sud, dal mio punto di vista, tenendo conto delle caratteristiche dei nostri territori, ambiente, agricoltura e turismo sarebbero i ministeri più adatti per sviluppare quell'economia sostenibile che io non metterei al sud ministeri di spesa, diciamo. Senta, Ian Core, però per giocare così, no, per restare un po' al gioco, no. Insomma, il sospetto è che è che siccome la partita dei sottosegretari per quelli di Noi Sud non è andata troppo bene, a un certo punto si sia creata questa spaccatura. Non è che ci siano motivi dietro così, così filosofici, ma noi semplicemente ci stiamo portando addosso questa croce da quando sono nati i responsabili. Cioè, ma non è una, non è un crimine avere voglia di fare il sottosegretario. Si tratta di un gruppo a caccia solo di poltroni. Ma lei lo farebbe il sottosegretario, signor Ancona? Chiaramente le poltrone se le erano già spartite quelli che volevano fare il baldone. Questo, sì, vabbè, ma questo lo sappiamo. Detto questo, io, come ho più volte ribadito, non volevo fare, non voglio fare il sottosegretario, perché ritengo che ci sia incompatibilità tra ruolo politico e ruolo istituzionale. Sono segretario del mio partito e voglio rimanere adesso. Però il signor Belcastro lo voleva fare. L'onorevole Belcastro legittimamente aspirava a farlo, come legittimamente aspirava a farlo l'onorevole Milo. È rimasto un po' fregato. La mia valutazione è stata che avendo già al governo Scotti, campano e napoletano, potesse essere accolta e recepita l'istanza del territorio calabrese. Lei ne fa una questione, siccome c'è un campano, io sud pure un calabrese. Noi siamo alla follia. Noi Sud poteva ampliare la propria rappresentanza territoriale con un sottosegretario della Calabria. Si può anche volere tutto, anche la luna, però lei dice, siccome Noi Sud aveva già un sottosegretario campano, sarebbe stato necessario un sottosegretario calabrese. Ma insomma è una cosa che non sta né in cielo né in terra, lei se ne rende conto o no? No, guardi, mi sembra strano che non si renda conto lei che invece era giusto garantire la rappresentanza di un'altra regione. Insomma, abbiamo diversi punti di vista. Ma non è che il governo va avanti alla divisione territorio per territorio, perché altrimenti perché non la Basilicata? Il mio punto di vista che immaginare di avere tutta la rappresentanza in un luogo, in una regione, estremamente sbagliato. No, ma ho capito, cioè la Calabria merita di avere un sottosegretario, a parte che già ci sarà un sottosegretario calabrese da qualche parte. Parlo della rappresentanza del nostro partito. Ah, nemmeno a livello generale. Merita un sottosegretario calabrese. Questa è una cosa assurda. Ian Core, mi scusi, adesso già chiamarlo partito, io però non mi allargherei così tanto. Mi meraviglio che lei continui a difendere la sua opinione, che ritengo assolutamente fuori, come dire, dimensione. Ian Core, con tutto il rispetto per il suo partito, che si chiamerà adesso Sud, mi ci vorrebbe la canzone degli 883. La rappresentanza dei territori. Sì, d'accordo. È giusto. Allora, il nostro partito si è presentato alle elezioni regionali scorse, quindi non è un partito virtuale, non è un partito del palazzo. Benissimo. E ha ottenuto 150.000 voti presentandosi in tre regioni. Ma questo che vuol dire? Come una strada di Milano praticamente. Un partito che vale una strada di Milano. Viale Monza, vale quanto Viale Monza? Viale Monza Milano è 150.000 voti. Le so dire solo che abbiamo raggiunto nel giro, siamo nati a gennaio, ci siamo presentati ad aprile dell'anno scorso e abbiamo ottenuto il 4% dei consensi. Non mi sembra né moltissimo, ma nemmeno pochissimo. Sì, scusi, 4% dove, scusi, Ian Core? in Campania, Calabria e Basilicata. Però scusi un attimo, adesso io per pari a 100.000 voti, cioè gli abitanti 150.000. Di Viale Monza a però, Milano. Mi scusi un attimo, adesso al di là di quanti voti eccetera, che pure è importante, ecco. Il fatto che lei mi dica, siccome Noi Sud ha un già un viceministro, sottosegretario, quello che è Scotti agli esteri campano, ce ne vuole uno pure calabrese per noi? Cioè mi fa andare fuori di testa, perché non è che possiamo pensare che a Noi Sud vadano ogni siccome mi fa fare una precisazione, perché altrimenti veramente la cosa lei così ha detto. No, io ho detto, perché la cosa non si capisce. Noi abbiamo ottenuto la disponibilità per quanto riguarda il nostro partito, il nostro gruppo parlamentare, di indicare un altro sottosegretario. Sì. La questione era assolutamente... Perché non andare in porto? Di chi è la colpa che non è andata in porto? La colpa è stata nostra, perché ci siamo divisi. In politica capita più spesso di indicare che di andare dunque d'accordo. La colpa di chi è? Di Sardelli, secondo lei? La colpa è stata nostra, perché non abbiamo trovato il modo per indicare in maniera unitaria chi dovesse entrare. Cioè vi siete scannati, punto. Adesso lo dico in maniera un po' forte. Vi siete lo può dire come vuole, insomma, la verità è questa. La questione è che siccome ci affascina il progetto della questione del sottosegretario, visto che la gran parte della responsabilità è nostra e ce l'assumiamo, noi vogliamo andare avanti sul progetto. Benissimo, vabbè. Se questo progetto merita di avere una rappresentanza nelle istituzioni, l'avrà. Se non la merita, per noi va bene lo stesso. Difficile capire. Rappresentanza ai territori meridionali. Difficile valutare, naturalmente, difficile capire chi giudica il merito. No, ma comunque, Iannacone, le volevo chiedere una cosa. Torniamo al nome di Tarzan che lei ha dato a Scotti. Com'è che l'ha chiamato Tarzan? Ma guardi, il nome di scherziamo Tarzan, un po', Iannacone. Si tolga un po' la grisaglia. Il nome di Tarzan a Scotti non l'ho dato io. E come no? Lei si dovrebbe ricordare, gli hanno dato i democristiani, perché Scotti... Sì, lo so, però lei l'ha riesumato. Quando si facevano i congressi seri e i partiti erano organizzati su basi democratiche, quindi si facevano i congressi, e i partiti, almeno in una fase iniziale, avevano componenti ideali che si chiamavano correnti, ma erano delle componenti ideali e di programma, l'onorevole Scotti aveva questa abilità particolare di saltare da una corrente all'altra, cambiando posizione da un congresso. Perché in questo caso lei ha riesumato lo Scotti Tarzan di una volta? Che ha fatto? Che colpe ha avuto? Cita soprattutto. La colpa che ha avuto Scotti è di non aver contribuito alla serenità all'interno di un gruppo e a favorire una scelta che era stata accettata dalla maggioranza del gruppo. Tutto chiaro. Tutto chiaro. No, io dico solo questo, che l'Agicom mai multerà il programma La Zanzara di Giuseppe Cruciani per la mancanza di responsabili. Cioè è il programma che compensa. Guardi, io dico a livello nazionale, compensa tutto. Io non so. Minzolini non ha mai invitato tanti responsabili quanto li abbiamo invitati noi. Almeno ci dia atto di questo. Noi dobbiamo fare una statua d'oro a voi, giornalisti. O voi giornalisti la dovete fare a noi, perché è vero che ci avete dato molto risalto, molta pubblicità, noi meglio di Minzolini, lo dica Iannacone, lo dica. Poi il dato politico comunque è rilevante, nel senso che questo gruppo ha consentito il 14 dicembre di evitare che ci fosse il ribaltone nel nostro paese. Questo non è che sia un merito riconosciuto dalla storia, cioè secondo voi è un merito, secondo altri no. Valutazione. Io ho parlato di dato politico rilevante, sia un merito o un demerito poi dipende dai punti di vista. Poi per carità, lei è uno di quelli che è stato eletto con la maggioranza. Questo mi sembra... Io sono stato eletto con la maggioranza, per noi è un merito. Dicevo, o la dobbiamo fare noi a voi, che avete dato risalto a questo gruppo, forse accentuando un po' troppo questa propensione ad avere incarichi, che poi cosa nemmeno vera. non è un crimine volere degli incarichi. Oppure voi a noi, perché vi abbiamo dato tanta materia. Quello sicuro. E appunto, per cui insomma, io mi inginocchio sempre quando incontro un responsabile sulla mia strada, mi inginocchio. Grazie per averci fatto passare gli ultimi mesi. Senta questa cosa, Iannacone, senta questa cosa. Ma se risponde a Formigoni che dice che i ministeri a Milano non servono. La bella pernacchia, come risponde Boss ogni tanto, eh. non l'ho sentita, guardi. Ma l'ha sentita la pernacchia che ha fatto a Formigoni, sì. Guardi, anche voi del sud dovreste avere un leader così alla Bossi, diciamo, no? L'ho sentita. Guardi, io penso che i leader nascono naturalmente. Poi ma chi è il leader del sud, secondo lei? Non è detto che ci debba essere per forza un leader come Bossi, ci potrà essere un leader che avrà altre caratteristiche. Io penso che diciamo Bossi viene riconosciuto come leader di un certo nord, chi potrebbe essere il leader del sud, secondo lei? Lo vedremo, la valuteremo. Ma come lo vedremo? Adesso non mi faccia proprio il democristiano fino al midollo. Non ho sentito. No, dico, mi dica un nome, secondo lei il vero leader del sud in questo momento chi è? Guardi, lo sceglieremo. Lo sceglierete, va bene. No, se lo va bene, grazie. Non grazie a voi. Pubblicità. Avanti, popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti, popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Io credo che bisogna rivoltare Milano, anche Napoli, come due calzini. Devono diventare città rosse per davvero. Quindi falce e martello? Anche falce e martello ci mancherebbe, soprattutto Milano e Napoli. Lei ha detto Milano deve diventare la Stalingrado d'Italia. Perché? Non lo era già Sesto San Giovanni? Lo diventerà anche Milano. La pura innalzi, rossa bandiera. Capito, Parenzo? Parenzo? Dove sei, David? Sono io però, David? Gabriele Albertini mi ha passato la comunicazione. Ah, caro sindaco, l'ha fatto uno scherzo, Parenzo. Mi ha fatto uno scherzo. Qua continuate a mandare canzoni degli operai. Ho capito, avvocato. Dei proletari, no? Non mi piace questa cosa, sempre con gli operai, i proletari. Scusi, avvocato, ma anche lei teme che Milano possa diventare la Stalingrado d'Italia, come dice Berlusconi? Cercheremo di mandare dei messaggi molto chiari, non la vogliamo la Stalingrado d'Italia. Ma come? Vogliamo le unità produttive, vogliamo la classe lavoratrice, non i rivoluzionari. Ho capito, ma non mi sembra che se dovesse vincere Pisapia vincono i rivoluzionari, gli estremisti, oppure secondo lei... L'abbiamo appena sentito, la Stalingrado d'Italia. Ma è Marco Rizzo! È caro Albertini, è Marco Rizzo! Sta con loro, mica sta appeso, sta con loro, ma non sta con loro, ma non sociali, ma non... Zingaropoli, la moschea più grande d'Europa, sono messaggi inquietanti. Ma lei si è convertito alla vogliamo Cristo Milano islamica, vogliamo queste cose, queste turcide, no non le vogliamo. come sta sindaco? Non c'è male, qua sono un po' sballottato oggi, ma ti fanno lavorare. Ma la stanno facendo lavorare, la Moratti l'ha messa o no? Bisogna tirare la carretta qua. Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto di mettersi a disposizione della Moratti? Comunque insomma mi pare giusto. Silvio, no? Nella squadra, certo, ci mancherebbe. Silvio l'ha chiamato, può aiutare, che può aiutare, non so, vediamo. Ma Silvio gliel'ha detto, o no? Anche, certo. Certo. Siamo ai rigori, abbiamo battuto la Juventus ai rigori, abbiamo preso come via, abbiamo vinto la Coppa dei Campioni ai rigori, qua speriamo di fare lo stesso. Sperate di vincere ai rigori, quante speranze ci sono? 10%, meno del 10%, dica la verità. No, 10% da suicidio, no, qualcuna di più. Qualcuno, di 15 più. Diciamo, no, 10, no anche un po' di più. Direi un 50, me la monetina, testo croci, ce la giochiamo a testo croci. Scusi, ma un attimo solo, perché c'è un collegamento particolare, via Bellerio, Umberto Bossi, buonasera. No, qua non vogliamo trasformare Milano in Zingaropoli. Chiudiamo i centri sociali. Bossi, ma sta storia dei ministeri a nord, com'è? Lei ha fatto una pernacchia a Formigoni, com'è stato possibile? Ma se tutti questi democristiani vogliono fare tutto a Roma, noi vogliamo i ministeri a Milano, sono 200.000 impiegati pubblici che sono tutti qua, si mangiano tutto quello che produciamo. Li vogliamo qua. Ma ai milanesi non gliene importa niente dei ministeri, poi vi siete divisi, almeno fate una proposta comune. ci studieremo, cioè, intanto cominciamo con i dipartimenti, poi arrivano anche i ministeri. Ma so che lei non ci crede, sindaco, come è possibile questa storia di dipartimenti, ministeri? Ma almeno uno, se deve fare una proposta, fatela tutti insieme. Perché no? I dipartimenti ci sono già, ci stanno, no? Mi sembra giusto, il 10% del PIL parte da Milano, il 28% dalla Lombardia, vogliamo metterci qualcosa qui, no? Sì, possiamo, i dipartimenti ci stanno, anche la Consob non ha la sede ufficiale a Roma, però ha una struttura burocratica che abbiamo offerto degli spazi. Ma Berlusconi dice che ci sarà la città diventerà islamica se vince Pisapia. Vabbè, c'è nel programma di Pisapia. Cosa? Che è la città islamica? Riteniamo ad esempio che la realizzazione di un grande centro di cultura islamica che comprenda, oltre alla moschea, spazi di incontro e aggregazione possa essere non solo l'esercizio di un diritto, ma anche una grande opportunità per Milano. Persino Fantozzi direbbe così, ma grande opportunità per Milano, se non la vuole lui la Milano islamica, l'ha scritto lui. La Milano programma, islamica, pagina 27 del programma. Ma centri di aggregazione non è la Milano islamica. La moschea più centri di aggregazione. Ho capito, ma non è che vuole portare terroristi. Cioè, secondo lei ci sarebbero Al-Qaeda qua. Al-Qaeda. Sto un po' esagerando. Però insomma, lei sa che many true words are said in jest. Mi traduca. Molte cose vere sono dette per scherzo. Amleto scena prima, atto secondo. Come vede, abbiamo una cultura che nessuno ci frega. Assolutamente, scusi un attimo, se lei immagina frotte di islamici che si precipiterebbero a Milano se vincesse Pisapia, perché verrebbero costruiti centri di religione. Ma è un segnale che non so, quando io lo propongo alla valutazione di chi deve votare. Questo è scritto nel programma, pagina 26. Poi la moschea è un centro di cultura molto lungimirante, però vediamo se nei quartieri periferici dove sono circondati da situazioni non, diciamo così, particolarmente identitarie, no? C'è persone che parlano un'altra lingua, che hanno altre abitudini, vedono questi segnali, non so se sono contenti, vediamo. Scusi, signor Albertini, se ci dovesse essere questo miracolo, no? Perché lei, secondo lei, è un miracolo ormai, cioè dovrebbe essere un miracolo, no? Una monetina che deve girarsi dalla parte giusta. Un miracolo, giusto? Un miracolo mi sembra eccessivo, insomma, è un po' deprimente un miracolo. Cioè lei dal punto di vista dal punto di vista calcistico, quanto siamo? 2-0 l'andata? 2-0 per Pisapia, su. No, 2-1. No, ma 2-1 è facile, ritorno 2-1 con un gol che era falloso in realtà, ecco, insomma. Con il gol di chi? Falloso di chi? Dobbiamo smettere perché sto iniziando un'altra trasmissione, mi dice il suo amico. No, però lei dovesse vincere la Moratti, proprio caso, proprio quasi impossibile ormai. Dovesse vincere la Moratti, lei che fa? Vice sindaco? No, io sono contento se questo avviene, poi fare qualcosa. L'assessore, però adesso dobbiamo proprio cominciare. Vabbè. Devo spegnere. Buonasera a tutti, bravo Cruciani, è impagabile. Arrivederci, grazie Gabriele Albertini. Traffico, saluti a tutti. Parenzo, un attimo, tutti. Due secondi, mi devi salutare. Un attimo, sono in sigla. È uguale, due secondi, ma facciamo uguale, una diretta concomitante. Saluti. Siamo qui, è fuggito via Parenzo. Caro Volpe Pasini, come faccio senza Parenzo adesso? Senza Parenzo non posso insultarlo, questo mi dispiace. Infatti non lo puoi insultare. Che mi vuoi dire, caro Volpe, amico mio? Volevo dirti che nessuno parla mai di una cosa che secondo me è giusto che i tuoi radioascoltatori sappiano. Cosa bisogna sapere? Tu sai che a Taranto sta per nascere un ospedale nuovo. Sì, no, si veramente chiama, non lo so, però. Si chiama San Raffaele del Mediterraneo. E che c'entra? C'entra perché è stato finanziato con ben 120 milioni di euro dalla regione Puglia, allora? Che è governata da Nichi Vendola. E il San Raffaele è di proprietà di una struttura milanese che fa riferimento a una persona molto nota. Sì. Questo signore, tra l'altro... Mi vuoi raccontare questa cosa della Puglia? Perché ti spiego, perché questo signore è uno dei grandi amici di Berlusconi, peraltro, ebbe modo di dire in campagna elettorale in Puglia l'anno scorso che Nichi Vendola, dopo Berlusconi, è il secondo politico dono di Dio. Sì. Pisapia è uomo di Vendola. Ora io facendo no, non è uomo di Vendola, adesso non esageriamo, non è uomo di Vendola. Non è l'uomo di Vendola nel senso biblico del termine. Ma no, ma nemmeno, non è nemmeno uomo di Vendola, anzi all'inizio, comunque, all'inizio era diffidente. Diciamo che rappresenta quell'area politica. Allora? E per Vendola la vittoria di Pisapia sarebbe una specie di apertura enorme verso una sua possibile candidatura alle prossime Vabbè, politiche. Qual è il collegamento? Il collegamento è questo: se tu analizzi il dato elettorale, non è tanto i pochi voti che ha preso la Moratti, ma i troppi voti che ha preso Pisapia. Il che vuol dire che in una città come Milano, se un uomo come Pisapia, che arriva da quell'area estrema, con tutti quelli che ha vicino, ha preso quel po' di voti, significa che qualcuno nell'area centrista, alias cattolica, lo ha aiutato. Ma guarda che non ha preso molti più voti rispetto a quanto ne prese Ferrante nel 5 anni fa. Ma ne ha presi di più, ne ha presi di più. Pochi di più. Ferrante non era un comunista estremo. Ma con questo che vuoi dire? Non ho capito. Voglio dire che questo mondo... Questo cioè mondo tu vuoi dire che il mondo cattolico di un certo che fa riferimento... Voglio dire che Berlusconi dovrebbe stare attento a chi ha in casa. I peggiori nemici di Berlusconi sono vicini a lui. Per esempio, in questa vicenda milanese, chi sono stati diciamo i nemici interni di Berlusconi? CL, no, una parte di Comunione Liberazione? Chi secondo te? Cioè, secondo me, è quello che dicono tutti. Che conosci bene le cose di Arcore. A parte Formigoni, che certamente personalmente si è speso e certamente ha fatto quello che ha potuto, ma la grande struttura, la grande potenza di tutto il mondo che fa riferimento alla Compagnia delle Opere, alla Comunità non, si è spesa. Non si è speso abbastanza. Ho capito. E questo non può essere perché è soltanto contrario alla Moratti. Io credo che tutti sanno che una sconfitta di Berlusconi, della Moratti a Milano, potrebbe essere portato sul piano nazionale, come tutti sappiamo. E ci potrebbero essere dimissioni di Berlusconi, secondo te? No, le dimissioni non credo, ma certamente un'ulteriore difficoltà in un momento in cui la situazione generale non è facile. Però scusa, perché questo mondo dovrebbe favorire l'area politica di Pisapia e di Vendola? Perché? Per favorire, come si dice, perché ha già fatto degli accordi precisi, ha già fatto degli accordi di trasferimento di alcuni pezzi fondamentali, cioè costruire il San Raffaele del Mediterraneo a Taranto. Però questa è un po' una cosa molto dietrologica. No, non è dietrologica, sono dei fatti. No? Io mi cioè tu dici ci sono affari tra un certo tipo di mondo cattolico e la Regione Puglia? Ci sono degli accordi economici, ci sono degli accordi importanti e credo anche che tutti sappiano che Berlusconi è sì un dramma per il centro-sinistra che non riesce a espandersi, ma anche un grande tappo per molti che nel centro-destra vorrebbero fare occupare quel posto e tanti altri. Ho capito benissimo. Quindi sai, il voto di Milano è un voto importantissimo per vari equilibri. Grazie, approfondiremo. Grazie a Diego Volpe Pasini. 2051 800 24, ciao amico mio, 800 24 00 24. Davide da Milano, buonasera. Sì, buonasera dottore. Dica. Due veloci interventi. Allora, il primo, io ho 30 anni, nato e cresciuto a Milano e io penso che tutti i ragazzi della mia generazione sappiano che da oltre 15 anni le serate più belle, la movida più bella di Milano è sempre stata in mano agli omosessuali, tra virgolette. Ma adesso questo non è che è così scontato, non è che così... Non è scontato, ma è così, cioè nel senso che Corso Como... Vabbè, questo che vuol dire, scusi, signor Gianluca? Vuol dire che nel 2011, mi scusi dottore... Parlare ancora di omosessuali, inizia a essere anche per noi, magari per me che ho 30 anni, inizia a essere anche un po' noioso, perché non ci frega niente, cioè l'omosessuale non ha niente di diverso da me, quindi in realtà possono fare quello che vogliono con gli omosessuali. No, però mi scusi, Davide, abbia pazienza, qui si sta parlando di un'altra cosa. Si era parlato prima con Cappato del fatto che, secondo lui, Milano doveva promuovere il turismo omosessuale. Bene Milano a promuovere il turismo omosessuale. Di questo stavamo parlando, mica di un festival del turismo omosessuale. Ma farebbero bene. Ma anche secondo me farebbero bene, Davide. Con me sfonda una porta aperta. E poi un'altra cosa, la Moratti ha perso perché la Moratti ha gestito male la città, purtroppo, o per fortuna comunque, il Presidente del Consiglio secondo me non c'entra nulla, la Moratti ha toppato perché ha fatto il Festival delle Luci a Natale, però la periferia di Milano era buia, ha toppato perché ha messo l'Ecopass, però poi l'inquinamento a pagamento non esiste più, e per altri miliardi di motivi che non c'entrano. Sono in parte d'accordo con lei, non ha perso solo per questo, però anche perché evidentemente la sua amministrazione è stata percepita come un'amministrazione non particolarmente convincente. Grazie Davide. Gianluca, sempre da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Il mio intervento è esattamente opposto a quello del mio concittadino di prima che parlava proprio sulla parte relativa ai locali per gay, sicuramente interessanti, carini, divertenti, eccetera, però può muoverle a livello amministrativo, mi sembra una cosa quantomeno strana. Ricordiamoci che sono aziende private, sono locali, sono discoteche, sono pub gestiti e da privati che ne curano la comunicazione, gli eventi, eccetera, eccetera, e peraltro hanno i loro canali di comunicazione che sono assolutamente migliori di qualunque canale possa mettere in piedi una sì, no, ma al di là dei dettagli, Gianluca, è la promozione del tuo. No, ma non è che si pensa di promuovere singoli locali. C'è chi dice che le città dovrebbero promuovere anche un certo tipo di turismo attraverso non so quale tipo di campagne pubblicitarie, di agevolazioni, eccetera, eccetera. Ci sono città che lo fanno e ne traggono grande profitto dal punto di vista economico. Dobbiamo chiudere però per questa sera. Ci sentiamo domani, sempre alla stessa ora, la Zanzara, 18:30. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Radio 24. La passione si sente.